Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti un cordiale saluto. Ci ritroviamo anche questo mese per il nostro percorso sul Vangelo di Marco. Inizio questa trasmissione proprio sentendomi parte della grande famiglia di Radio Maria, una famiglia che ha questi confini internazionali che ci sono appena stati ricordati. Confini che vanno dalla Bolivia a Milano, all'Italia, dall'Uganda agli Stati Uniti. Ecco, anche noi diamo il nostro piccolo contributo, che questa sera, proprio nella continuità delle trasmissioni precedenti, ci confronterà con il capitolo 13 del Vangelo di Marco. Ecco, cari ascoltatori, voi sapete che la nostra trasmissione è sempre suddivisa in due parti. C'è una prima parte che è una riflessione, uno studio su il testo di Marco e che occupa sostanzialmente i primi 45 minuti, mentre la seconda parte è dedicata alle vostre domande. Tengo sempre a sottolineare l'importanza delle vostre domande. Le vostre domande sono importanti e preziose quanto la riflessione che tengo nella prima parte, perché ci aiutano a evidenziare, sottolineare alcuni aspetti che possono sfuggire durante la riflessione. Quindi vi invito a non aver timore, ogni contributo è prezioso, non bisogna avere mille lauree per affrontare il testo della Sacra Scrittura. Più ci si accosta alla Bibbia con semplicità di cuore, più la parola di Dio riesce a parlare a noi e alla nostra vita. L'obiettivo della nostra trasmissione è proprio questo, quello di mettere in contatto la parola di Dio con la nostra vita, cercando di approfondire quello che l'Evangelista intendeva dire quando ha scritto il suo testo. Bene, entriamo quindi subito a contatto con la pagina di Marco. Per quanti di voi hanno la possibilità e quindi non sono in viaggio ma si trovano a casa, invito a prendere tra le mani un'edizione della Bibbia o dei Vangeli, aprendola al capitolo 13 del Vangelo di Marco. Ovviamente non riusciremo in questi 45 minuti ad affrontare tutto il capitolo 13, commenteremo solo i primi 13 versetti di questo capitolo. Ecco, vi chiedo un po' di pazienza questa sera perché il tema che ci troviamo ad affrontare è un tema un pochino difficile, un po' delicato, perché ci confronta con il cosiddetto discorso escatologico di Gesù, viene definito così in termine tecnico, cioè il discorso che Gesù tiene sugli ultimi tempi, sulla fine del mondo, sulla fine della storia. Tenete presente che il capitolo 13 del Vangelo di Marco è il più lungo discorso presente nel secondo Vangelo e è un discorso che ha suscitato diverso dibattito tra gli studiosi. Alcuni studiosi ritengono che Gesù non l'abbia mai pronunciato perché quell'imminenza della fine dei tempi che Gesù sembra esprimere nel testo che ascolteremo di fatto non si verifica. E allora dicono Gesù non può essersi sbagliato, questo discorso sarebbe stato creato dalla comunità primitiva che si doveva confrontare con le persecuzioni. Ora questa lettura sinceramente non rientra nel nostro interesse, per noi è importante capire quello che Gesù voleva comunicare attraverso un linguaggio e delle immagini che possono avere una loro giustificazione, nel senso che attingono alla tradizione culturale del primo secolo che utilizzava nell'ambiente semitico delle immagini forti. Quindi non è da escludere che Gesù abbia pronunciato questo discorso, che poi gli evangelisti lo abbiano rielaborato, vabbè, questo è un altro paio di maniche. Entriamo quindi a contatto con il testo. Lo suddivido in due parti, leggeremo prima l'inizio del discorso di Gesù, cioè la cornice, la cosiddetta cornice narrativa che ci aiuta a capire perché Gesù tiene questo grande discorso, dopodiché entreremo nel contenuto del discorso, quello che Gesù raccomanda, vuole sottolineare ai suoi ascoltatori. Cominciamo ad ascoltare quindi la cornice narrativa, i primi quattro versetti. Marco 13, 1, 4. Ascoltiamo il testo. Mentre Gesù usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» Gesù gli rispose: «Vedi questi grandi edifici? Qui non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta». Mentre era seduto di fronte al Tempio, sul Monte degli Ulivi in disparte, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogarono: «Dicci, quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi?» Ecco, questo rappresenta la cornice narrativa del discorso. Gesù sta uscendo dal Tempio, prima viene interpellato da uno dei suoi discepoli e poi a questo uno si sostituiscono i primi quattro chiamati, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea. Ecco, questi primi quattro chiamati pongono una domanda ben precisa a Gesù che sostanzialmente evidenzia l'importanza della risposta che Gesù sta per dare, Gesù sta per sottolineare. Cominciamo a commentare alcuni aspetti di questa cornice narrativa. Il primo aspetto che merita di essere sottolineato è la scena iniziale. Al versetto 1 ci viene detto che Gesù esce dal Tempio. Ora, quando Marco delinea, descrive, dipinge questa scena, non descrive solo un fatto quotidiano. Gesù non è che sta uscendo dal Tempio come esce ogni giorno. Questa uscita dal Tempio ha un significato più forte, perché Gesù esce dal luogo sacro per eccellenza per non rientrarvi più. Questa è l'ultima volta che Gesù ha messo piede nel santo di Gerusalemme, nel luogo santo per eccellenza di Gerusalemme. Tanto vero che alcuni studiosi ritengono che ci sia un perfetto parallelo tra questa scena e una scena che trova risonanza in uno dei testi profetici, quello del profeta Ezechiele, dove al capitolo 11, versetto 22, viene narrata l'allontanamento della gloria di Dio dal Tempio di Gerusalemme. Il profeta Ezechiele descrive così la scena, sempre capitolo 11, versetto 22 del profeta: «I cherubini allora alzarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro, mentre la gloria di Dio di Israele era in alto su di loro. Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è a oriente della città. E uno spirito mi sollevò e mi portò in Caldea tra i deportati, in visione per opera dello Spirito di Dio. E la visione che avevo visto disparve dinanzi a me. E io raccontai ai deportati quanto il Signore mi aveva mostrato». Ora, perché gli studiosi vedono un parallelismo tra questa scena di Ezechiele e la scena di Gesù che esce dal Tempio? Perché a Gesù sta succedendo proprio quello che sta per succedere, quello che abbiamo ascoltato succedere al profeta Ezechiele. La gloria di Dio lascia Gerusalemme come Gesù lascia il Tempio per non rientrarvi più. Ezechiele viene portato tra i deportati come Gesù, dopo questo grande discorso, sarà consegnato praticamente nelle mani del mondo pagano. Ezechiele viene portato in terra impura, quella della deportazione, Gesù sarà consegnato alla morte di croce, alla morte impura per eccellenza, così come era successo al profeta. In altre parole, in Gesù si compie lo stesso destino che si era compiuto per il profeta Ezechiele, però al massimo grado, cioè Gesù assume su di sé la situazione più drammatica della storia, che è quella della prigionia, della deportazione, del peccato, per riscattarlo con la sua morte. Come però Ezechiele era stato un segno per coloro che vivevano nella deportazione, così Gesù con la sua morte non è solo un segno, ma è il luogo in cui si va a instaurare la vita nuova, in cui verrà rigenerato il popolo peccatore sarà riscattato dal dono pieno dell'amore di Dio sulla croce. Ecco allora che questa uscita dal Tempio da parte di Gesù viene, evoca la storia di Ezechiele. Non solo, ma come la gloria uscendo dal Tempio si era posata di fronte al Tempio sul monte all'oriente della spianata sacra, lo stesso avviene per Gesù, perché Gesù esce dal Tempio e con i suoi discepoli ci viene detto che si sedette di fronte sul Monte degli Ulivi in disparte, ed è in quel contesto che tiene il suo grande discorso. Quindi il primo elemento è questo: il destino che Gesù sta vivendo non fa altro che riprendere il destino dei profeti, ma come il destino dei profeti non è mai solo un destino di condanna, ma anche di speranza, così questa uscita dal Tempio di Gesù non è solo un rifiuto del luogo sacro, ma è un segno di speranza, cioè è un segno che ha come obiettivo quello della rinascita del popolo e anche della rinascita del luogo sacro, come avremo modo di vedere. Secondo aspetto che merita di essere sottolineato, è l'aspetto, la reazione che i discepoli hanno nel momento in cui stanno allontanandosi dal Tempio. C'è uno di loro che si avvicina a Gesù e gli dice: «Maestro, guarda che pietre e che edifici!» Gesù gli rispose: «Vedi questi grandi edifici? Qui non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta». Allora, notiamo la sottolineatura da parte dell'Evangelista dello stupore dei discepoli. I discepoli si lasciano affascinare dall'apparenza dell'edificio del Tempio, un'apparenza che è confermata dalle indagini archeologiche. Probabilmente lo sapete anche voi, soprattutto chi di voi è già stato in Terra Santa, quando si va a visitare il muro occidentale del Tempio, il cosiddetto muro del pianto, sono ben visibili le grandi pietre che costituivano il muro di contenimento dell'area sacra. E tra queste pietre ce ne sono ancora alcune oggi che raggiungono i 12 metri di lunghezza, 12 metri, i 4 di altezza e i 5 e mezzo di larghezza, quindi sono delle pietre mastodontiche. È ovvio che coloro che le vedevano dall'esterno, soprattutto nel momento magari anche in cui sono illuminate dal sole, restavano incantati. La costruzione del Tempio di Gerusalemme era considerata una delle 7 meraviglie del mondo antico, proprio per la sua magnificenza, la sua gloria. E il modo in cui i discepoli guardano queste pietre è caratterizzato da un guardare contemplativo. Il verbo che viene utilizzato per dire a Gesù «guarda che pietre, che edifici» è il verbo «orao», che non è solo il vedere fisico, ma è un vedere contemplante, è un vedere che si trasforma quasi in stupore, in preghiera. E Gesù reagisce a questo lasciarsi affascinare dall'esterno con un verbo invece più fisico. «Vedi questi grandi edifici» è solo il vedere fisico. Ecco, in italiano è difficile rendere questa sfumatura, ma in greco c'è. Per cui Gesù smonta i discepoli dicendo: «Attenzione a lasciarvi affascinare solo dall'immaginario esterno. Dovete andare più in profondità». E quel dover andare più in profondità si traduce in una profezia disarmante: «Qui non rimarrà pietra su pietra che non sia distrutta». Cioè, anche se queste pietre sono così grandi, 12 metri di lunghezza, 5 metri e mezzo di larghezza, bene, non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta. Gesù è molto radicale in questo. E guardate, la storia del tempo confermerà questa profezia di Gesù. Pensate, il Tempio di Gerusalemme, per essere costruito, ha avuto bisogno di quasi 70 anni. Dal periodo di Erode, che muore nel 4 a.C., fino attorno al 62 d.C. Quindi è un tempio che per essere costruito ha avuto bisogno di un periodo lunghissimo di tempo. Ovviamente la costruzione del tempio ha dato anche possibilità di lavoro a centinaia di migliaia di persone nel tempo in cui è stato costruito. Bene, la durata di vita del tempio compiuto sarà di 8-9 anni massimo, perché nel 70 d.C., lo sappiamo, l'invasione dei Romani porterà al decadimento e alla distruzione completa del Tempio, che verrà raso al suolo. Quindi il tempo di vita del Tempio veramente è stato molto poco, anche se era considerata una delle sette meraviglie fin dall'epoca in cui c'erano i lavori in atto. Quindi la profezia di Gesù di fatto si compie. Alcuni ritengono che questa espressione sia stata addirittura inserita nel Vangelo dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, come se i discepoli, ricordando quello che Gesù aveva detto, avessero sentito il bisogno di sottolinearlo riprendendo il discorso stesso di Gesù. Quello che è importante tenere presente in questa profezia di Gesù è l'invito ai suoi discepoli di non lasciarsi ingannare dall'apparenza. Per vivere bene il tempo presente, l'uomo ha bisogno di andare in profondità, di non lasciarsi affascinare dall'esteriorità delle cose. L'esteriorità delle cose inganna. In questo momento c'è una canzone di Cesare Cremonini che va molto per la maggiore su tutte le radio, no? È la canzone Il Comico, il cui ritornello dice: l'occhio ride ma ti piange il cuore. Mai lasciarsi affascinare dall'apparenza, anche quando uno sembra sereno, contento. Chi sa guardare in profondità riesce a vedere se dietro il sorriso dell'occhio c'è un cuore che piange oppure un cuore che è in sintonia con quello sguardo. Mi sembra molto bella questa associazione, perché quell'invito che ci viene da Gesù ci viene declinato anche in tanti altri modi, nel mondo in cui noi viviamo, nel contesto in cui noi viviamo. Gesù, tra l'altro, proprio in riferimento al Tempio, aveva già messo in guardia i suoi discepoli da questo atteggiamento. Quando, visitando per la prima volta il Tempio, ora qui esce per l'ultima volta, quindi c'è una sorta di sintonia tra l'inizio e la fine, quando visitando per la prima volta il Tempio aveva vissuto il famoso episodio del fico. Ricordate, Gesù vede un fico pieno di foglie, ha fame, si accosta al fico, vede che ci sono solo foglie, dentro non ci sono i frutti e lo maledice. Quando avevamo commentato questo episodio avevo sottolineato che l'immagine del fico nella tradizione di Israele è un'immagine che richiama proprio il Tempio, è il simbolo del Tempio. Quindi Gesù aveva messo in guardia i suoi dicendo: guardate che il Tempio di Gerusalemme, anche se è un luogo sacro, rischia di essere come questa pianta di fico. Bello a vedersi perché attira gli sguardi, perché è rigoglioso, perché ha le foglie ampie, ma senza frutti al suo interno. Ed è un pochino questo l'invito che Gesù fa ai suoi. A quel punto arriviamo alla terza sottolineatura di questo brano, che di fronte ovviamente a questa profezia di Gesù, che è una profezia un pochino dura, si fanno avanti i primi quattro chiamati, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, e pongono a Gesù una domanda. Dicono a Gesù: quando accadranno queste cose? Quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Ora, la domanda di questi discepoli tradisce l'errore dello sguardo. Gesù ha appena detto loro di andare in profondità e loro fanno una domanda che è superficiale, perché è una domanda che si ferma sul quando e sul come, ma non si chiede il perché. Non si chiede il come far fronte a quello che sta per accadere. Ecco, Gesù nella sua risposta cercherà di far capire ai suoi che non devono soffermarsi sul quando e sul come e sul quale sarà il segno, ma si devono piuttosto preoccupare del perché si è arrivati a quel momento e soprattutto del come arrivare preparati alla fine dei tempi. Nel discorso che Gesù terrà per rispondere a questa domanda, Gesù si rifarà tra l'altro ancora alla tradizione profetica, non più in questo caso a Ezechiele, ma si rifarrà al profeta Isaia. Il profeta Isaia aveva già evidenziato un aspetto importante nel rapporto con il Tempio al capitolo 66 della sua opera, quindi alla fine della sua grande opera, quando, rivolgendosi al popolo, così aveva annunciato: dice il Signore, il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi, quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano, ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia parola. Ecco, molto bella questa immagine di Isaia, perché hai al popolo di allora, preoccupato del tempio che doveva essere ricostruito, dice: non preoccupatevi della mia casa, perché la mia casa è l'umile, è chi ha lo spirito contrito, è chi teme la mia parola, questa è la casa che mi dovete costruire. Quindi di fronte ai discepoli che chiedono a Gesù e che sono preoccupati di fronte alla sua profezia, per cui gli dicono quando, quale sarà il segno, Gesù reagisce dicendo: no, attenzione, badate a voi stessi. Ecco, lo vedremo questo dopo una breve pausa musicale. Lasciamo adesso proprio un breve stacco che permetterà a ciascuno di voi, ascoltatori, a ciascuno di noi, di rileggere un attimo questi quattro versetti prima di ascoltare la risposta che Gesù darà ai suoi, una risposta che è ancora carica di provocazioni. Quindi un breve stacco musicale e riprendiamo subito il nostro commento. Ecco, continuiamo in sintonia con il breve stacco musicale, dove veniva chiesto al Signore di restare con noi, di consolare i nostri cuori, e ci mettiamo un pochino nella condizione di questi quattro discepoli che, in altre parole, con il loro interrogativo non fanno che chiedere a questo. Spaventati di fronte alla profezia di Gesù, gli chiedono: bene, quando accadranno queste cose, quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi? Ascoltiamo la risposta di Gesù, la prima parte perlomeno della risposta, la seconda la vedremo tra un mese, i versetti da 5 a 13. Leggiamo il testo. Allora Gesù cominciò a dire loro: badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e inganneranno molti. Quando pertanto sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre, non spaventatevi. Tutto ciò deve accadere, ma non è ancora la fine. Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno terremoti in diversi luoghi, ci saranno carestie. Queste cose costituiranno l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi, vi arresteranno, vi percuoteranno nei sinedri e nelle sinagoghe, e per causa mia sarete portati di fronte a governatori e re per rendere loro testimonianza. Prima infatti bisogna che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. Quando vi trascineranno per arrestarvi, non preoccupatevi prima di quello che dovrete dire, ma dite quello che vi sarà proposto in quel momento. Non siete infatti voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori per farli morire, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Colui però che avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ecco, questa è la prima parte del discorso di Gesù. Come vedete, Gesù risponde alla domanda dei discepoli, ma non in modo diretto, risponde in modo indiretto, mentre punta l'attenzione sulla loro vita. Se voi avete notato nella prima parte di questa risposta di Gesù, Gesù sviluppa la risposta attorno a tre temi che vanno, come possiamo dire, in modo concentrico, e uno sempre più dentro la vita dei discepoli dell'altro, no? Comincia dalle situazioni mondiali, dalle situazioni che possono toccare l'esperienza della comunità umana, dell'umanità, quindi le carestie, i terremoti, le guerre. Poi scende a toccare la vita dei singoli, dicendo: badate però a voi stessi, e quindi dice alla comunità che andrà incontro alla persecuzione, e poi entra ancora di più perché va a minare quelle che sono le relazioni più sacre della nostra vita, la relazione con i genitori. Paradossalmente la relazione con i nostri genitori è la relazione più forte della nostra esistenza, perché è quella che è caratterizzata anche da un legame di sangue. Tutte le nostre cellule ci parlano di nostro padre e di nostra madre, sia che nostro padre o nostra madre siano dei santi, sia che siano delle persone che magari ci hanno fatto del male, però tutte le nostre cellule ci parlano di loro. Bene, la persecuzione può arrivare fino al punto in cui anche questa relazione, che è sacra, perché è la relazione che Dio ha abitato facendosi suoi figli, può essere minata in quel tempo. Quindi il discorso che Gesù fa ai suoi è un discorso molto duro. Cominciamo anche qua a vedere un po' lo sviluppo, a commentare questa triplice approfondimento della risposta di Gesù, cercando di capire cosa Gesù vuol dire. Nella prima parte della risposta Gesù fa riferimento agli eventi, alle cosiddette piaghe, le guerre, i terremoti e le carestie. Bene, questa triplice piaga, la guerra, il terremoto, la carestia, rientrava nel tipico linguaggio apocalittico. Lo troviamo molte volte nell'Antico Testamento, questa triade, la troviamo in Isaia, la troviamo nel profeta Zaccaria, in Daniele. Alcuni studiosi hanno voluto identificare dietro questi tre elementi degli episodi concreti del primo secolo. Per le guerre si sono state identificate le guerre civili, compresa la prima guerra giudaica che ebbe inizio nel 66 d.C. Per i terremoti alcuni hanno fatto riferimento ai terremoti di Pompei, di Ercolano del 63 d.C. o ai terremoti dell'Asia Minore del 61 d.C. Le carestie, alcuni vi hanno visto le carestie registrate ai tempi di Claudio attorno agli anni 50 d.C. o di Nerone poco dopo. Quindi alcuni hanno voluto identificare questi episodi in eventi reali che erano successi dopo la prima metà del primo secolo. Di fatto però la triade è una triade classica, che vuole dire l'intervento di Dio nella storia. Quando Dio vuole intervenire nella storia mostrando l'irruzione di Dio che vuol provocare la riflessione degli uomini, vengono utilizzate queste tre immagini, viene utilizzata la guerra, il terremoto e la carestia. Quindi sembra che Gesù, più che riferirsi a degli episodi concreti, che pur ci sono stati nel primo secolo, abbia attinto a quello che era il linguaggio del tempo. In questo contesto di guerre, di terremoti e di carestie, la minaccia più grave però è caratterizzata dai falsi profeti, cioè dalle false persone che ingannano la gente dicendo sono io, molti verranno nel mio nome dicendo sono io. Ecco, questo sono io non è solo un'identificazione della persona che dice guardate a me, io vi porto fuori dalla situazione di crisi, no, il sono io richiama il tetragramma sacro. Sapete che nel libro dell'Esodo Dio definì se stesso davanti a Mosè dicendo io sono colui che sono. Ecco, la definizione io sono è la definizione per eccellenza di Dio, quindi la più grave minaccia che può succedere nei tempi ultimi è quella dei falsi messia, di coloro che portano un falso Dio nella storia o si identificano con Dio stesso. E alcuni qui hanno visto un altro episodio successo nel primo secolo durante l'impero di Nerone prima, di Caligola poi, che identificarono se stessi come imperatori che incarnavano la presenza di Dio. Addirittura Caligola visse un periodo in cui voleva intronizzare nel Tempio di Gerusalemme la sua statua come immagine da adorare, e alcuni vedono in questo tentativo di Caligola l'abominio della desolazione di cui si parla anche in questo discorso di Gesù. Al di là di tutto questo, quello che a noi, per noi è importante sottolineare, al di là di questa cornice, è la definizione che Gesù dà di tutte queste piaghe. Dice, queste cose costituiranno l'inizio dei dolori, cioè le carestie, le guerre, i terremoti non sono il segno della fine del tempo, ma è l'inizio dei dolori. Il termine utilizzato in greco richiama i dolori del parto. E questa è un'immagine bella, significativa, perché Gesù ci fa capire che quello che succederà alla fine dei tempi non è qualcosa in vista della distruzione totale del popolo, ma è qualcosa che è in vista della rinascita. In questo senso il discorso di Gesù si distacca dai discorsi apocalittici del primo secolo, perché è fortemente sbilanciato, se così potremmo dire, ecco, fortemente sbilanciato sull'aspetto positivo. L'intervento di Dio nella storia è un intervento che ha un duplice obiettivo. Da un lato quello di provocare la conversione dei suoi, quindi il ritorno dell'uomo in se stesso, dall'altro quello di portare una rinascita. Ovviamente il passaggio intermedio di tutto questo è un passaggio doloroso, perché è caratterizzato dal dolore, dalla violenza, però tutto questo è in vista di una rinascita. In questo senso il linguaggio dell'Evangelista Marco è molto simile al linguaggio di Paolo. Paolo, nella sua lettera rivolta ai cristiani di Roma, parla di una creazione che soffre le doglie del parto. Al capitolo 8, versetto 20, Paolo si rivolge così ai credenti, dice: «La creazione è sottoposta alla caducità, nella speranza che lei pure sia liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo». Molto bella questa immagine di Paolo, perché sottolinea che la realtà di sofferenza e di caducità, di fragilità che l'uomo vive, è una fase di passaggio verso la realtà gloriosa, quella della risurrezione. E questa realtà gloriosa non concerne solo l'uomo, concerne la creazione intera. E il dramma, la fragilità della creazione, quindi anche le piaghe della creazione, come possono essere i terremoti, le carestie, le pestilenze, tutto ciò che può nascere nel contesto dell'umanità, non sono altro che il segno di un dolore che aspira a qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande è l'essere immersi nella realtà della risurrezione. Quindi è il primo aspetto che merita di essere sottolineato e di essere custodito da noi di fronte a questo testo è l'elemento della speranza. Gli eventi degli ultimi tempi hanno come obiettivo quello di generare un mondo nuovo che sarà inaugurato dal Figlio dell'Uomo. Il Figlio dell'Uomo è la primizia di questa generazione nuova che viene ad aprirsi. Di fronte a tutto questo però Gesù, e arriviamo al secondo approfondimento, Gesù dice ai discepoli: attenti, voi non dovete però fermarvi ai terremoti, alle carestie o alle guerre o ai rumori di guerra che possono esserci nel mondo. Gesù attira subito l'attenzione su di loro, dice: attenzione, voi badate a voi stessi, cioè la prima cura che dovete avere è per voi stessi. E qui Gesù fa l'elenco di ciò che aspetta i dodici. Ciò che aspetta i dodici è il lungo elenco della passione, perché Gesù dice loro: badate a voi stessi, vi arresteranno, vi percuoteranno nei sinedri e nelle sinagoghe, per causa mia, sarete portati di fronte a governatori e re per rendere loro testimonianza. Se voi ascoltatori fate attenzione a questa profezia di Gesù nei confronti dei discepoli, non fate altro che vedere quello che succede a Gesù stesso. Gesù non si limita ad annunciare ai suoi quello che succede loro, lo vive lui in prima persona. Quindi il discepolato continua, proprio perché lui vive questo, l'arresto, la persecuzione, l'essere portato di fronte a governatori e re, lo stesso dovranno vivere i discepoli. Però anche in questo caso l'elemento non ha solo un risvolto negativo. Gesù precisa che Tutto questo è necessario perché il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E anche qui c'è un'apertura notevole di Marco, no? Perché Gesù esce dal Tempio, il luogo sacro che escludeva le nazioni, che escludeva i pagani, e annuncia una fase della storia che ha come preoccupazione prima da parte di Dio la custodia dei pagani. Quindi i lontani, al posto di essere considerati come tali, sono quelli che Dio vuole tenere più vicini a sé. E pur di raggiungere i lontani, pur di raggiungere i pagani, pur di raggiungere i peccatori, chiede ai suoi discepoli di vivere l'esperienza della sofferenza, del dolore, della persecuzione. Questa persecuzione ha come obiettivo quella di creare un unico popolo, dove buoni e cattivi, vicini e lontani, sono radunati e diventano tutti figli di Dio nella logica dello Spirito Santo. Ovviamente tutto questo ha un filo rosso, e questo filo rosso è un verbo molto particolare in greco, che è il verbo paradidomi. Questo verbo in greco significa consegnarsi, noi l'abbiamo tradotto con arrestare, essere trascinati, però il verbo in greco è uno solo, è il verbo paradidomi, è il verbo che scandisce la passione di Gesù. Ai discepoli, in altre parole, non è chiesta che una cosa, un atteggiamento solo, quello della piena consegna di se stessi. È la dimensione, se volete, più difficile da vivere, perché è facile seguire Gesù da un punto di vista razionale, è facile seguire l'insegnamento di Gesù, è facile studiare e approfondire la sua parola, ma è tutta un'altra cosa consegnare la propria vita, consegnare il proprio essere, lì ci si gioca fino in fondo e su quello abbiamo mille resistenze. Ed ora Gesù sta cercando un pochino di smuovere i suoi su questo aspetto. Cari ascoltatori, facciamo ancora un breve stacco musicale prima di fare l'ultimo commento a questo brano e di riassumere quanto è emerso dal testo su cui oggi abbiamo riflettuto, per poi continuare con l'ultima parte della risposta di Gesù, quindi un altro breve stacco musicale. Ecco, di fronte alla situazione quindi dei discepoli che chiedevano a Gesù quando e quale segno caratterizzerà la fine dei tempi, abbiamo visto Gesù invita alla consegna piena di sé. E questo ci ricollega all'episodio che abbiamo commentato e visto la volta scorsa. Se ricordate, la volta scorsa avevamo commentato insieme il famoso episodio della vedova, che gettò nel tesoro del Tempio tutta la sua vita, tutto quello che lei aveva. Bene, alla luce di quanto noi abbiamo ascoltato oggi, il gesto della vedova assume ancora più significato, perché è un gesto segnato dallo spreco. Lei getta nel suo Tempio tutto quanto aveva per vivere, tutta la sua vita, avevamo detto sarebbe la traduzione letterale, bene, subito dopo Gesù dice che di quel Tempio non resterà pietra su pietra. Viene spontaneo domandarsi, ma allora che significato ha avuto il gesto di quella vedova? Non è stato uno spreco? Ha dato tutto se stesso, mettendo in pericolo la sua vita, nel tesoro di un Tempio che veniva distrutto? Ecco, Gesù l'aveva lodata non per quanto aveva messo, no? Ma per quell'atto di consegna totale di sé. Una consegna rischiosissima, perché dava tutto quello che aveva per vivere, ma che lei, povera, vedova, senza risorse, senza titoli attorno a sé, è stata in grado di fare. Ora, è questo che Gesù sta chiedendo ai suoi discepoli. Anche se non capiscono quello che stanno per vivere, anche se vorrebbero sapere il quando, i segni, Gesù li invita a un altro elemento, a prepararsi alla consegna piena di sé. Ed è in questo contesto che arriviamo all'ultimo elemento della risposta di Gesù, l'elemento dei rapporti familiari. Gesù radicalizza il suo discorso dicendo: attenzione, il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori per farli morire e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Colui che però avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ecco, quando leggo questi due versetti, mi viene sempre in mente un testo che ho recentemente fatto tradurre per la nostra casa editrice. È un testo che racconta la storia di una conversione, di una conversione difficile da un'altra religione alla religione cristiana. Il testo di Joseph Fadel si intitola Il prezzo da pagare, è una storia vera, una storia drammatica di una persona che lascia l'Islam per aderire al cristianesimo e che è costretto a lasciare la sua terra, a fuggire sotto altre identità per non mettere in pericolo la sua vita. La testimonianza viva di questa persona è davvero toccante. È un testo che è stato in vetta alle classifiche del libro più venduto in Francia, dove è uscito in lingua originale, e merita davvero di essere letto. Noi oggi siamo a contatto con molte realtà del mondo dove i cristiani vivono ancora la persecuzione. Penso al Pakistan, penso ad alcune nazioni, se volete, dell'Africa, le realtà possono moltiplicarsi. Queste situazioni di persecuzione, a volte noi che viviamo in un contesto tutto sommato ancora buono, ancora tranquillo, forse ci interpellano poco, ma a volte dovremmo ricordare di più, no? Quanto questa Chiesa che soffre abita il corpo ecclesiale, e questi due versetti già sono molto vivi nella storia della Chiesa di oggi. Ora, questo fa parte di quei dolori che devono generare la vita nuova. È molto bello leggere i testi delle prime generazioni cristiane, quando nel 313, tra un po', l'anno prossimo vivremo proprio l'anniversario del famoso editto di Milano, dove la religione cristiana viene riconosciuta dallo Stato. Ecco, in quel contesto molti cominciarono a ritirarsi dalle città, vita monastica, dicendo il tempo delle persecuzioni paradossalmente era un tempo sì sofferto, ma era un tempo che custodiva meglio la fede. Oggi invece, dicevano ovviamente i padri di allora, siamo immersi nel riconoscimento di tutti e rischiamo di perdere l'essenziale della nostra fede, ci adagiamo, la nostra fede non interpella più la nostra vita, quindi noi ci ritiriamo nel deserto per continuare ad essere segno di una presenza altra nel tessuto sociale del tempo. Ecco, Gesù ricorda che le persecuzioni non hanno solo il risvolto negativo, della medaglia, cioè hanno un risvolto positivo, oserei dire generativo. Dal sangue dei martiri nascono nuove generazioni di cristiani, e in tutto questo chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, dove fino alla fine non significa solo la fine temporale, la fine della storia, ma fino alla fine, cioè fino al dono pieno di se stesso, è una fine, se volete, qualitativa. Allora, abbiamo cercato di commentare insieme questi primi 13 versetti del capitolo 13 di Marco, l'inizio di questo lungo discorso apocalittico che continueremo a commentare la volta scorsa. Mi sembra che due siano i messaggi principali da tenere presente in questa nostra riflessione. Il primo messaggio era quello della cornice narrativa, quando i discepoli reagiscono di fronte a Gesù dicendo vedi che belle pietre, vedi che belle costruzioni. Quindi è un messaggio, un invito per noi ad andare oltre l'apparenza, a non fermarsi all'occhio che ride, ma a sapere entrare là dove piange il cuore, a saper cogliere le cose in profondità, a non lasciarsi incantare da ciò che gli occhi vedono, ma scavare un po' dietro, a mettersi in un atteggiamento di reale ascolto dell'altro. Il secondo motivo di riflessione è quello che abbiamo visto adesso. Il discorso di Gesù, oltre a parlare di terremoti, guerre e carestie, invita soprattutto alla consegna di sé. Quella consegna che però è una consegna difficile. Noi lo sappiamo, il confronto con i 12 discepoli nel Vangelo di Marco non farà altro che confermare continuamente la difficoltà di questa consegna di sé. fino alla fine i discepoli scappano. Lo sappiamo, davanti alla croce di Gesù, al capitolo 15 di Marco, nel Vangelo di Marco, non sto parlando né di Luca né di Giovanni, nel Vangelo di Marco, ai piedi della croce, prima della morte di Gesù, non resta nessuno. Tutti fuggono, tutti falliscono. È quel mistero doloroso che attraversa ogni esperienza di fede. Tuttavia, questo fallimento viene riscattato dall'amore di Dio e permette poi una rinascita. Dopo la morte di Gesù cominciano a tornare in scena tutta una serie di figure positive che costituiranno poi il popolo di Dio, il popolo cristiano. Un popolo che nasce, se volete, su un fallimento, ma che poi viene ricostruito dall'amore gratuito e radicale fino alla fine, fino alla morte, da parte di Gesù. Questo è il duplice messaggio che ci viene da questi versetti. Ora, cari ascoltatori, è il vostro turno. Chiedo a voi, mentre ci sarà uno spazio musicale un pochino più prolungato, di ripercorrere questi versetti, di lasciare emergere dentro di voi qualche interrogativo, qualche richiesta di chiarimento. E in questo modo continueremo la nostra riflessione su questo brano. Se non sarò in grado di rispondere alle vostre domande, vi rimanderò, come ho già fatto altre volte, alla puntata successiva, prendendomi del tempo per approfondire anch'io. La scuola della parola, la scuola al Vangelo di Marco, è una scuola che ci vede tutti discepoli. Non c'è uno che insegna e gli altri che ascoltano. Siamo tutti in ascolto reciproco e quindi i vostri interventi, come vi dicevo, sono preziosi quanto il mio. Lasciamo uno stacco musicale e ci riascoltiamo per le domande. Pronto, buonasera. Buonasera Don Giacomo, telefono dalla Sardegna. Sì. Sono Maria. Perfetto. Allora, questo capitolo 13, versetti che ha letto, piuttosto complicati, ha parlato molto dell'Antico Testamento e dovrebbe per cortesia spiegare appunto questo che io adesso dico, in vetere testamentum, testamento novum latet, il Nuovo Testamento vetus patet, cioè nell'Antico Testamento si nasconde il Nuovo e nel Nuovo Testamento si rivela l'Antico, prima domanda, seconda. E ha parlato di consegna di sé, penso che Paolo, ha detto molto, che è molto difficile, senza dubbio, addirittura Paolo ha impiegato tutta una vita per consegnarsi a Cristo, quindi come faremo noi? Paolo che era chi era, insomma, quindi chiedo a lei appunto queste due risposte, la ringrazio, spiegazione, la ringrazio, buonasera Don Giacomo. Buonasera. Grazie signora Maria per queste due domande, perché entrambe sono importanti per capire il testo, no, che abbiamo commentato questa sera. Prima di tutto la prima domanda, il rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Molto bella la sua citazione che ci riporta proprio alla lettura corretta. L'Antico Testamento e il Nuovo Testamento per noi hanno rappresentato a lungo due mondi diversi, due mondi distinti, quasi due volumi all'interno dell'unica scrittura, mentre la scrittura li presenta in una continuità stupenda. Noi non possiamo comprendere le pagine del Nuovo Testamento senza ricorrere all'Antico, e nello stesso modo l'Antico Testamento raggiunge una sua luminosità solo nel momento in cui si contempla il Nuovo Testamento. Tra l'altro questa modalità è una modalità che è molto cara a Gesù stesso, al risorto. Il risorto, quando si presenta ai suoi discepoli sulla strada di Emmaus o in altri contesti, illumina sempre la sua storia e il suo destino rifacendosi alla legge e ai profeti. È molto significativo al riguardo proprio l'episodio che menzionavo, l'episodio di Emmaus. Questo vale soprattutto per questi discorsi che Gesù fa. discorsi escatologici o apocalittici che siano attingono ovviamente a una tradizione che affonda le sue radici in tutte le pagine dell'Antico Testamento. Le grandi scene che vengono descritte in questi discorsi si rifanno soprattutto alla tradizione di Daniele, pensate all'immagine del figlio dell'uomo, di Ezechiele abbiamo visto l'episodio della gloria del Tempio, no? Che si allontana dal Tempio e si ferma sul Monte degli Ulivi, a Isaia stesso quelle profezie sul Tempio, Isaia e Geremia potremmo citare continuamente. La stessa evocazione del Monte degli Ulivi va in questa direzione. Sapete che il Monte degli Ulivi viene menzionato due sole volte nell'Antico Testamento, sempre in un contesto apocalittico, dai profeti Ezechiele e Zaccaria. È il Monte degli Ulivi, su cui tra l'altro Gesù tiene questo grande discorso, il luogo in cui viene inaugurato la fine dei tempi, dove porrà il suo trono Dio e giudicherà i buoni dai cattivi, separando gli uni dagli altri. La tradizione ebraica dice che tutto questo avverrà alla porta d'oro del Tempio, a quella porta dove oggi sono visibili due grandi archi. Quei due archi ricordano un po' la tradizione cristiana, poi adottata anche dall'Islam, dove in una porta passeranno coloro che vengono salvati grazie alla misericordia di Dio e dall'altro verranno puniti coloro che hanno compiuto il male, quindi la porta della misericordia e la porta del giudizio. Ora, tutto questo immaginario noi lo possiamo ricostruire solo grazie all'Antico Testamento. Ecco perché un cristiano non può comprendere fino in fondo la figura di Gesù senza tenere unite questi due polmoni, sono due polmoni di un unico respiro, che è il respiro della nostra fede. Il secondo aspetto è l'elemento della consegna. Voi sapete che è un tema che mi è particolarmente caro. Mi è particolarmente caro il discorso della consegna di noi stessi, non solo perché mi è caro l'Evangelista Marco, ma perché nel leggere il secondo Vangelo noi notiamo tutta la fatica che i discepoli fanno per vivere questa consegna. Una fatica che l'Evangelista deve aver vissuto in prima persona, altrimenti non sarebbe in grado di renderla in modo così efficace, così bello, no? Io sono convinto che Marco, che scrive questo Vangelo, corrisponda al Marco che mollò la missione quando era alla sequela di Paolo. Paolo nel primo viaggio missionario si era imbarcato insieme a Barnaba e quando Barnaba e Paolo cominciarono a inoltrarsi in territorio pagano per annunciare il Vangelo ai pagani, ci viene detto negli Atti degli Apostoli che Marco fa dietro fronte, cioè li abbandona perché ha paura di inoltrarsi in terra pagana, ha paura di entrare in contatto con il mondo impuro. E questo sarà poi causa del dissidio tra Paolo e Barnaba, perché una volta tornati a casa Barnaba vuole riprendere Marco e Paolo dice no, io non voglio riprendere chi ci ha abbandonati. Ora, questa fatica di Marco a consegnarsi, che poi lo porterà a rielaborare molto il proprio discepolato e lo rivedremo risalire in scena con il perdono pieno di Paolo, sembra averlo scottato così tanto che questa esperienza di smacco la vediamo all'opera in tutti i discepoli. I discepoli, così come ci vengono presentati nel secondo Vangelo, quindi nel Vangelo di Marco, hanno tutti questa caratteristica, sono tutti discepoli che falliscono uno dopo l'altro e solo dopo il fallimento tornano in scena, come se il fallimento li educhi a quella consegna difficile che è possibile vivere solo se noi lasciamo crescere il Cristo in noi. La consegna per un cristiano, così come Gesù la chiede, è impossibile da vivere, è possibile solo se noi permettiamo a Gesù di vivere dentro di noi, quindi di agire dentro di noi, di amare come lui ama, di accogliere come lui accoglie, di essere gratuiti come lui è gratuito. Però per far questo dobbiamo lasciar crescere il Cristo in noi, e lasciar crescere il Cristo in noi non è una cosa così, cioè ci vuole davvero molta preghiera prima di tutto, ma molta anche umiltà interiore. Noi siamo pieni di egoismi, basta una cosa e scatta in noi ora la gelosia, ora l'egoismo, ora la chiusura, ora l'offesa, tutti questi elementi ostacolano un atteggiamento di consegna. La consegna è ben altra cosa, è la capacità di liberarsi dal proprio io per lasciar vivere Cristo. E questa è la grande sfida cristiana e la bellezza anche della proposta spirituale che il Vangelo ci fa. Grazie di cuore, signora Maria, per questa sua domanda. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, Don Giacomo. Sì. Io mi chiamo Marisa, telefono da Torino, la seguo con attenzione fin dall'inizio, saltando pochissimi incontri. Grazie. Sono molto preziose i suoi insegnamenti, ci aiutano molto nella riflessione della parola. Io questa sera sarebbe tutto da commentare, però voglio partire dal fondo e volevo chiedere così il suo intervento, la sua riflessione su quello che riguarda i rapporti familiari. I rapporti familiari visti appunto nella luce di questo dolore del parto degli ultimi tempi, perché anche in questo probabilmente ci deve essere una rinascita, dove ci sono appunto le incomprensioni familiari, dove la nostra fede viene vista con occhi sospetti, dove siamo sempre continuamente accusati, con il dito puntato, insomma siamo emarginati, no? Genitori, figli, eccetera, eccetera. Quindi io volevo proprio così una sua riflessione su questa parte, perché non è che dobbiamo pensare, non lo so, veramente a delle cose sanguinarie, ma sono cose dolorose che fanno sanguinare il cuore a molte persone. Grazie signora Marisa per questa sua riflessione, questa sua domanda, no? Che ci permette di approfondire proprio l'ultima parte, soprattutto gli ultimi due versetti del discorso di Gesù che abbiamo letto stasera. Penso che potrebbe essere utile partire da un'immagine che utilizza l'Evangelista Marco stesso, mettendo in scena nell'unica volta del suo Vangelo la figura di Maria. Voi sapete che Maria domina la scena, cioè è presente più volte nel Vangelo di Luca, soprattutto nei primi capitoli, nella parte dedicata all'infanzia, ricorre in momenti strategici nel Vangelo di Giovanni e praticamente ricorre una volta sola nel Vangelo di Marco. E in quest'unica volta in cui la madre di Gesù ricorre nel Vangelo di Marco è un momento difficile, è un momento di crisi. È il momento in cui Gesù praticamente rompe con i suoi parenti. Siamo al capitolo 3, ci viene detto che Gesù ha sempre più successo tra la folla, però incontra l'opposizione delle autorità religiose. Le autorità religiose ritengono che sia uno che parla in nome di Belzebul, quindi in nome del demonio. Sentito questo, i parenti di Gesù, temendo forse una ritorsione nei loro confronti o temendo per la vita di Gesù stesso, si mettono in cammino per andare a prendere Gesù e portarselo a casa, cercando di farlo star buono. Tanto vero che il giudizio che danno su Gesù è terribile, dicono è fuori di sé, è impazzito. Vanno da lui con questi parenti, c'è la madre, e arrivato da lui dicono: ecco, ci sono tua madre e i tuoi fratelli, sono fuori e ti cercano. E Gesù non si sposta di un millimetro, dice: chi sono la mia madre, chi sono i miei fratelli, chi fa la volontà di Dio, questi è per me fratello, sorella e madre. E Gesù lascia i suoi parenti e sua madre fuori, mentre attorno a lui stanno tutti questi discepoli, questa folla fatta di peccatori, zoppi, storpi, ciechi. Questi sono la sua famiglia. Ovviamente in un momento come questo è un momento di crisi, è un momento di crisi per i suoi parenti. Pensate che alcuni studiosi ritengono che questo episodio sia stato scritto dall'Evangelista Marco perché all'interno della comunità cristiana delle origini ci sarebbe stato un pochino una tensione tra gli eredi degli apostoli e gli eredi familiari di Gesù, cioè la dinastia vera e propria di Gesù, perché entrambi vantavano dei diritti. Gli eredi degli apostoli dicevano: noi siamo i depositari del suo insegnamento, i familiari dicevano: noi siamo i depositari della sua tradizione familiare, e tutti e due pare volessero avere un ruolo nella Chiesa Madre. Quindi questa tensione si rifletterebbe nel Vangelo di Marco, che esclude i primi, a favore, che esclude i parenti a favore degli eredi degli apostoli. Al di là di questo, è un momento di crisi. E io sono convinto che in questo momento di crisi Maria fa il suo grande salto di consegno, cioè lascia Nazareth, chiude la sua casa e si mette discepola tra i discepoli. Spesso qualche autore si lamenta perché Marco ha dedicato solo questa pagina alla figura di Maria, ma è una pagina stupenda, perché ci aiuta a capire come in un momento difficile, critico, i rapporti familiari tra Maria e Gesù cambiano radicalmente. Il momento della crisi è il momento del massimo rispetto dell'uno verso l'altro, per cui Gesù ribadisce il rispetto nei confronti della paternità di Dio, lui deve seguire una volontà che è altra e che viene da Dio Padre, dalla paternità di Dio. Dall'altro, Maria capisce che la sua maternità non sta nel proteggere Gesù, ma nell'essere discepola tra i discepoli, e si metterà alla sua sequela. Ora da qui possiamo attingere qualche riflessione anche per alcune relazioni familiari. Penso che oggi come ieri non sempre è facile da parte dei genitori comunicare la fede ai figli. Spesso i figli, dopo magari un periodo di frequentazione della fede dei genitori, staccano la spina, hanno bisogno o hanno voglia di non vivere quelle pratiche religiose, quelle forme di preghiera, quella modalità di vivere la fede che è così come è vissuta dai loro genitori. Ecco, in questo momento penso sia importante per i genitori tenere presente una cosa: tutto ciò che si è seminato in Dio e nello Spirito non va mai perso, mai. Però è come il seme che muore. A volte viene deposto in una terra e c'è il tempo in cui questo seme resta nascosto. Resta nascosto, ma produce, lavora dentro, finché produrrà il suo frutto. Siamo, tra l'altro, viviamo oggi in un contesto che non favorisce tutto questo, ma se i figli hanno attorno una testimonianza di fede autentica da parte dei genitori, questa testimonianza non andrà persa. E qui raccomando una cosa ai genitori: cari genitori, cari papà, care mamme, non smettete mai di pregare per la fede dei vostri figli. Non limitatevi a chiedere la salute del corpo, non limitatevi a chiedere il posto di lavoro, cose sacrosante, però non basta quello. Non limitatevi a chiedere dei buoni stipendi, chiedete anche il dono della fede, perché nei momenti più difficili della vita non è il lavoro che salva, non sono i soldi che salvano, ma ciò che salva, ciò che tiene aggrappato, ciò che dà il lume della speranza e la forza interiore è la fede. E quello che noi crediamo, chiediamo nello Spirito non va perso. E poi chiedo un'altra cosa: attenzione alle forzature. Non obbligate mai i figli a vivere la fede come la vivete voi. Perché? Perché questo alla fine produce l'effetto contrario. Noi siamo chiamati ad essere luce, segno di luce. La strada poi da percorrere la vedono loro. Quindi in tal senso siate dei testimoni che sanno parlare al momento giusto, ma anche tacere al momento giusto. Perché delle forme, di fede imposta o esposta eccessivamente possono produrre effetti contrari. E l'ultima dimensione che caratterizza i rapporti familiari è quello che accompagna un papà e una mamma dall'inizio della loro vocazione fino alla fine. Io sono sempre più convinto che la vocazione genitoriale, la vocazione di un papà e di una mamma, sia una delle vocazioni più difficili da vivere, altro che quella dei preti e delle monache, ancora di più difficile. Perché? Perché bisogna essere pronti al sacrificio. Il vostro, cari papà, care mamme, è un sacrificio quotidiano. Dio solo conosce le lacrime che versate per i vostri figli di nascosto. I sacrifici che fate perché i vostri figli possano avere una vita dignitosa, piena, le sofferenze che possono causare alcuni voltafaccia, il grido che può suscitare quando non sapete più che pesci prendere per far capire che loro stanno prendendo una strada sbagliata e sembra che non potete fare niente. Quante volte nelle confessioni si accolgono storie del genere per presentarle a Dio? Ecco, penso che a tutto questo possano far riferimento quei due versetti. E la fede diventa la grande arma che con discrezione, silenzio, può rendere i rapporti tra genitori e figli dei rapporti fecondi e vivi. Cara Marisa, grazie per questa tua domanda, vedi che orizzonti la parola apre anche su questi aspetti. Grazie di cuore. Pronto, buonasera. Buonasera, Don Giacomo. Mi dica. Io sono Angelo e ho finito adesso di piangere, non voglio ricominciare. No. Oh, si è attrezzato a fare i miracoli perché lei è un santo, mi ha detto delle cose meravigliose, ha dato tutte le risposte che io desideravo sentire. In ogni modo, io sono rimasto molto colpito e in verità profondamente adorato, ma la fede che ho verso Gesù, nostro Signore Dio Padre, è tale che non posso pensare, perché lui è stato di esempio, Padre, nell'orto di Getsemani, se puoi allontana da me questo calice, ma sia fatta la tua volontà se ciò deve avvenire. Bene, io ho due figli, sono separato, anzi divorziato, e non per mia scelta, lo voglio sottolineare in ogni caso, questa è un'altra cosa. Questi due ragazzi, 26 anni lui, 23 lei, insomma sono venuto a sapere che hanno detto basta, io sono stanco di sentire i sermoni di mio padre e non mi si deve parlare né di religione né di sesso. La figlia mia cui ho detto che non avrei mai gettato la spugna, che fin quando io pregherò per loro non mi dichiarerò mai né sconfitto né sfiduciato. Risposta, amen. Bene, quell'amen io ho detto, bene, amen, vuol dire che continuerò a pregare con più insistenza, perché ho una fiducia senza limiti nella misericordia di Dio. E la mia preghiera ricorrente è, Signore, io desidero portare la croce della sofferenza, perché mi piace provare il dolore, i dolori lontanamente, è ovvio, perché sono, penso che siano state indescrivibili le sofferenze di Gesù, però non ho paura perché so che tu sarai il mio cireneo. Bene, questo mi dà talmente fiducia, talmente certezza, non speranza, certezza che io sarò sempre nel cuore di Gesù e lui sarà sempre l'ospite del mio cuore, perché è entrato e non vuole saperne di uscire, e io mi considero caro signor Angelo, caro signor Angelo, la sua riflessione, no, ci porta proprio a una delle dimensioni importanti, no, della fede. La fede diventa la grande forza nei momenti di difficoltà. La ringrazio prima di tutto perché ha condiviso un pezzo della sua esperienza, proprio forse una dimensione delicata, quella del rapporto con i due figli. Quello che sento di dirle in modo molto, molto semplice è questo: prima di tutto di tenere presente che quando c'è stata una storia un po' tormentata come può essere quella del suo matrimonio, ovviamente i figli ne risentono e magari dentro di loro c'è un atteggiamento più forte di ribellione, e in questi casi diventa ancora più importante dare una testimonianza di fede molto molto discreta, senza venir meno nel portare avanti ovviamente la propria fede, la propria pratica, però stare attento a non imporla, perché altrimenti si ottiene l'effetto contrario. Quello che lei sottolineava anche della dimensione della sofferenza, no? Il saper deporre nel cuore di Dio le cose che si vivono, la sofferenza che si vive, è una dimensione importante. Teniamo presente però che Gesù non è il nostro Cireneo, siamo noi Cirenei di Gesù, cioè è importante che a soffrire non siamo, fra virgolette, noi, cioè il mondo è salvato da Cristo. L'importante è che nella nostra sofferenza ci sia Cristo. Se noi permettiamo nella nostra sofferenza, alla nostra sofferenza, di essere abitata da Cristo, quella sofferenza avrà sempre un cuore di misericordia, perché c'è Gesù lì. E Gesù è colui che ha aperto le braccia sulla croce al ladrone buono, ma anche al ladrone meno buono. È colui che ha saputo tenere fino alla fine la comunicazione con il Padre, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma anche con le autorità religiose che ai piedi della croce lo insultavano, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè il mistero della croce è quel mistero dove la dimensione verticale, la dimensione orizzontale sono unite, è unito la destra e la sinistra, il nord e il sud, la croce è il punto di unione della storia, no? Dove tutto assume un significato, però ci deve essere Gesù, la croce non deve essere vuota, né sulla croce dobbiamo andare noi da soli, altrimenti il dolore ci aggredisce senza forse portare quel frutto che ci aspetteremmo. Quindi avanti con fede e nello stesso tempo con tanta discrezione. Grazie di cuore per questa sua testimonianza e per queste anche lacrime che ci dicono come la parola di Dio ha toccato il suo cuore. Grazie, signor Angelo. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto. Con chi parlo? Buonasera. Sono Massimo da Ortonovo. Mi dica, Massimo. Io penso che è lo Spirito Santo che ha avuto questa telefonata, perché veramente lei ha toccato un tasto che in preghiera questi giorni, cioè questo mese anche di più, io invoco sempre il Signore che mi dia la grazia del martirio, perché penso che ogni cristiano, se non accetta nella sua anima la croce, non è un cristiano, ma non è per fare il bravo ragazzo. E poi un'altra cosa, la domanda è in due fasi, se mi consente. Anch'io sono figlio unico e trovo il dolore dei miei genitori che sono un po' lontani da Cristo. Per una stata di Sant'Antonio mio babbo fa dell'ironia, no? Con Gesù bambino in mano. Per dire, e io prego per loro, penso che sia una missione anche questa per me. E una cosa volevo dire, lei che è un sacerdote, si parla poco del martirio, nel senso che dovrebbe, Gesù dice, non abbiate paura di chi uccide la carne, ma non uccide l'anima, giusto? Cioè, deve parlare del martirio come una cosa di un'influenza che si può curare. Poco, anche nei parroci, secondo me bisognerebbe parlare di più, inculcare questo coraggio ai non cristiani. Ecco, finito, l'ascolto per radio. Grazie mille, Massimo, per questo tuo intervento, che anche questo evidenzia un aspetto che emergeva da queste pagine di Marco che abbiamo commentato insieme. Ovviamente questi versetti ci mettono in contatto con il tema del martirio in modo forte, in modo deciso. Ecco, noi forse oggi non ne parliamo più perché viviamo in un contesto, come dicevo prima, che non ci espone più di tanto, per cui la nostra fede non solo si indebolisce, ma rischia anche di perdere di convinzione. Il fatto anche che la nostra fede sia una fede molto, come dire, tradizionale, che si basa su forme, atti, riti, magari ereditati nel tempo, che a volte possono essere esposti anche alla derisione, ci dice che a volte è una fede poco motivata, dove non si cerca di rendere ragione della speranza che è posta in noi, come ci viene detto nella lettera che Pietro scrive alla sua comunità. Perché non cerchiamo di rendere ragione della speranza che c'è in noi? Perché non siamo esposti alla persecuzione. Però non dimentichiamo che in questo preciso momento, in diverse parti del mondo, ci sono molte comunità cristiane che vivono esposte da questo, nel dramma. Prima abbiamo menzionato alcune comunità, il Santo Padre Benedetto XVI torna più volte su questo aspetto. La dimensione del martirio è una dimensione essenziale all'identità cristiana, essenziale nel suo significato più profondo. Gesù non ci chiede di andare a cercare la croce, anche perché la croce ci viene incontro da sola. Non dobbiamo andarla a cercare, dobbiamo però vivere quello che il martirio vuol dire. Il martirio, nel suo significato più profondo, significa testimonianza. Il martire è il testimone per eccellenza, e la testimonianza può prendere diverse vie. Tutte le vie portano al compimento, il compimento è quello della croce. Ora, che tipo di consegna il Signore ci chiede? Chiede a tutti. A volte può essere la consegna nell'esperienza della malattia, a volte può essere la consegna nell'esperienza di un'incomprensione nei rapporti quotidiani. Quante croci passano dalle incomprensioni dei rapporti quotidiani? Incomprensioni sul lavoro, incomprensioni in famiglia, incomprensioni con le persone che amiamo di più. Quanta sofferenza passa da queste relazioni? E lì anche il cristiano è chiamato a vivere la sua esperienza di croce. In altri casi la croce assume proprio il volto di una persecuzione, di un dolore. Cioè, quello che voglio dire, caro Massimo, è che la croce non ci viene incontro solo nel momento in cui uno uccide la nostra carne in modo fisico violento. La nostra carne può essere uccisa da una malattia, la nostra carne può essere uccisa da un tradimento. Pensate al tradimento di una moglie nei confronti del marito nei confronti della moglie. Quanto dolorose sono queste pagine, che lacerazioni provano all'interno delle famiglie. Ora, la fede ovviamente chiede di vivere tutte queste pagine con un atteggiamento diverso da quello che potrebbe vivere un uomo senza fede. Vivere tutte queste pagine, tutte queste situazioni dolorose con Cristo, ovviamente ha un significato altro. Prima, tra le tanti gli esempi, no, che citava l'esempio di suo padre che sorride davanti alla statua di Sant'Antonio, no, col bambino in braccio. Ecco, questa sorta di derisione è chiaro che fa male, da un lato, no? Dall'altro però diventa una provocazione a motivare sempre di più un certo modo di rappresentare la nostra fede. Dietro quel Sant'Antonio col bambino in braccio, ovviamente la Chiesa ha cercato di trasmettere un messaggio legato alla figura, all'identità spirituale, alla profondità di Sant'Antonio. A volte, ecco, si rischia di perdere il messaggio che l'immagine vuole dare, fermandosi a un devozionismo magari esteriore. Ecco, nostro compito è quello di non perdere mai l'anima delle cose, anche quelle che sono le pratiche più semplici e che vanno tutelate, lo sottolineo, che vanno tutelate, anche le pratiche più semplici è sempre importante motivarle, altrimenti alla fine diventano dei gesti meccanici di cui non capiamo più il significato. Ora, tutto questo passa dalla via della testimonianza. Essere veri testimoni significa saper rendere ragione della nostra fede, dei nostri momenti di vita e di come li viviamo. Grazie Massimo, quindi, per questa tua domanda e soprattutto per la passione che emergeva dalle tue parole. Si vede che sei una persona che si interroga alla luce dello Spirito e si vuole lasciar guidare, e questo è già una bella testimonianza per tutti noi. Grazie Massimo. Pronto, con chi parlo? Buonasera, don Giacomo, sono Franca di Varese. Mi dica, Franca. Guardi, io volevo soltanto ringraziarla a nome di tutte le mamme e i papà che sono in ascolto questa sera, perché lei ha colto veramente la sofferenza. E come posso dire, anche l'amore coniugale e della famiglia. Quello che possiamo fare con l'aiuto di Dio e dello Spirito Santo è la guida di Maria, perché senza di loro veramente non possiamo fare nulla. Nel momento in cui nella mia vita io ho voluto fare le cose in testa mia, ho sbagliato. Nelle volte in cui invece ho detto: Signore, io non sono in grado, però se ti pensi tu e metto la mia vita, il mio cuore, nel tuo cuore, sono sicura che qualunque cosa tu sceglierai sarà fatta bene. E quindi io ti offro la mia vita perché tu sei morto per me. E ogni volta che tu decidi per me, ogni cosa andrà bene. E io ringrazio per lei come sacerdote, come uomo, per il suo grande cuore, perché ha saputo spiegare queste cose con una semplicità che tutti possono comprendere la sua carità. Grazie, dunque. Grazie, buonasera. E ringrazio io lei, signora Franca, perché nel suo intervento ha messo in evidenza un aspetto, no? Anche questo molto bello. Lei in modo molto, molto pacato, molto umile, sottolineava questa sua esperienza, no? Nella sua esperienza di fede lei sente che senza l'aiuto di Dio non può far nulla, per cui di fronte a quelle che sono i ritmi della sua vita quotidiana chiede sempre l'assistenza di Dio. E penso che questa sia una testimonianza che è ottima per tutti noi ascoltatori, per me stesso, che sto parlando in questo momento. Vede, spesso quando si è giovani, si è nel pieno delle proprie forze, si fa, si disfa, ci si sente, in grado di rivoluzionare il mondo. E si pensa che la nostra efficacia stia nel fare tante cose, nel riuscire a incidere, nel riuscire a cambiare le cose. E spesso ci si dimentica, prima di iniziare una cosa o un'altra, un impegno, un incarico, un apostolato, si dimentica di chiedere l'assistenza dello Spirito Santo. E ci si dimentica di quella frase che lei ha ripetuto più volte. Quella che Gesù diceva nel suo ministero: senza di me non potete fare nulla, potete fare, disfare, costruite, ma senza di me non lasciate segno, non lasciate futuro, non lasciate storia, non rispondete alla vostra vocazione. E Gesù stesso nel suo ministero diceva che lui senza il Padre non poteva far nulla, invece noi pensiamo da soli di trasformare e di cambiare il mondo. Quindi forse una delle dimensioni importanti nel discorso di fede è proprio questo, ricordarsi che la presenza di Dio accanto a noi è essenziale per riuscire a vivere quello che noi viviamo. Ed in fondo era il messaggio che Gesù ha cercato di dare a quei primi quattro discepoli, che erano tutti fissati sul «ma quando accadrà questo? Ma quali segni ci saranno?». E Gesù dice: ma ascoltate, voi dovete badare a voi stessi, e in quel badare a voi stessi e nelle esortazioni che lui fa ai discepoli c'è quell'invito a andare in profondità e a restare uniti al Maestro, senza il quale veramente non è possibile fare nulla. Grazie quindi anche a lei, signora Franca, per questa sua sottolineatura che ha arricchito tutti noi. Pronto? Pronto, l'ultima nostra domanda, sì, mi dica. Buonasera padre, le chiedo scusa se la disturbo proprio la fine. Volevo solo ringraziarla, io mi chiamo Rosa Maria e chiamo dal Piemonte, diciamo solo così. Sì. Volevo solo ringraziarla perché ha menzionato il libro Il prezzo da pagare di Joseph Fadella, perché è veramente bello, io l'ho comprato, l'ho regalato a diverse persone, io l'ho letto di almeno 2-3 volte, ed è veramente bello, lei lo consigli, ne parli ancora, perché è la prima volta che sento Radio Maria di che parlano di questo libro. Capisco che lei è un, mi pare che sia un così, Paolino. Comunque, un Paolino, ecco. Sì, sì, sì. La ringrazio perché è un libro da consigliare a tutti gli italiani, tutti. Direi che l'esperienza di questo iracheno è meravigliosa. Comunque tutti i personaggi, cominciando dal suo amico con cui ha fatto servizio militare, sono tutti meravigliosi, l'hanno aiutato in tutti i modi. Io la ringrazio, le chiedo scusa e buonasera, grazie. La ringrazio signora Rosa Maria per questa sua conferma, le posso anche dire che come casa editrice, io lavoro nella casa editrice nelle edizioni San Paolo, come casa editrice abbiamo cercato proprio anche di costruire un evento in cui portare la testimonianza viva di questa persona che è giovane e si sposta anche per fare queste testimonianze, ma non ci è stato possibile organizzarla perché rischiavamo di mettere in pericolo la sua vita, quindi quanto è scritto in quel libro praticamente continua ad essere storia quotidiana. Quindi la ringrazio perché mi conferma insomma nella lettura positiva insomma di questa bellissima testimonianza raccontata in quel libro. Allora io prendo l'occasione, il mio tempo è terminato, prendo l'occasione per ringraziare tutti voi cari ascoltatori che mi avete seguito con la preghiera in questa puntata. Ringrazio soprattutto Maria della Sardegna, Marisa di Torino, il signor Angelo con le sue lacrime, Massimo con la sua passione, Franca da Varese e Rosa Maria del Piemonte per i vostri interventi che come vedete hanno arricchito la nostra trasmissione, ci hanno permesso di toccare molti altri argomenti che la mia relazione non aveva praticamente toccato. Un grazie a ciascuno di voi, una benedizione a tutti voi ascoltatori, a quanti seguono dall'Italia, a quanti seguono dall'estero. E che il Signore ci accompagni tutti e ci custodisca nelle vie della fede. Ci risentiamo tra un mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.